Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quel Natale non lo volevo passare da solo. Ignorando completamente cosa volesse dire, vado al canile più vicino al mio posto di lavoro, chiedendo di adottare un cane. Ciao, sono Tiziano, vivo a Montelupo Fiorentino e mi occupo di informatica e ho l'hobby della corsa. Arriviamo distrutti a 2500 metri. Piantiamo la tenda nell'unico posto un poco in piano, vicino all'acqua. C'è la nascita di un torrentello, a 15 minuti di cammino. La sera vediamo uscire gli stambecchi, le corna immense, i movimenti calmi e sicuri, ma lui non c'è. Cominciamo a pensare che non lo vedremo mai. Di notte la luna è così piena che ci permette di non accendere neanche una piccola torcia. Mi chiamo Alvise Crovato, ho 30 anni e vengo da Milano. La mia storia racconta di come gli esseri unici e speciali rendano anche la nostra vita un po' più preziosa. Cominciava così una delle storie raccontate l'anno scorso al live di Voi Siete Qui, era il 2013, c'erano 10 storie, c'erano le 10 persone, i 10 autori di quelle storie presenti. Lui era Alvise, ve lo ricorderete, era un ragazzo con la barba che ci aveva raccontato un pezzo della sua vita, aveva raccontato di questo stambecco bianco di fiocco di neve che lui aveva visto e fotografato. C'era anche la foto proiettata sul grande telone bianco, come accadrà quest'anno, con le foto degli ascoltatori che hanno mandato le loro storie e le loro immagini. Se avete voglia di tornare a rivivere più o meno quello che era successo l'anno scorso, a sentirvi 10 nuove storie tratte, estrapolate da questa stagione di Voi Siete Qui, l'appuntamento è per giovedì 26 giugno 2014, ovviamente, alle 21, qui a Radio 24, in via Monterosa 91 a Milano. Non è così difficile da raggiungere, se arrivate in macchina potete uscire a Piazzale Lotto e il parcheggio poi qui è anche tutto sommato piuttosto facile da trovare. Se venite in treno scendete in stazione centrale o a Cadorna, poi pigliate la linea verde se siete a centrale o gialla e poi con la rossa arrivate qua sempre alla fermata di Lotto. Insomma, non è così complicato e soprattutto sarà una bella serata. Non ci saranno partite importanti dei mondiali da vedere, non ci sarà sicuramente l'Italia e noi saremo qui a festeggiare un anno di storie raccontate dagli ascoltatori, di chi ha voluto condividere dei pezzi della sua vita. Con noi sul palco ovviamente Mauro Ottolini, come vi abbiamo già raccontato più di una volta, come Paolino Corleoni ha prontamente, come un qualunque DJ di Radio DJ, mandato sotto la mia voce, sembri, come si chiama? Farolfi, no? Che Linus chiede, boom, guardalo lì. Mauro Ottolini sarà con noi, Mauro Ottolini e i Sousaphonics, a suonare, a musicare le 10 storie che ci saranno al live. Per iscrivervi gratuitamente andate sul sito di Radio 24, scorrete fino a che trovate Voi Siete Qui Live, ci cliccate sopra, inserite i vostri dati e voilà! È fatta, è gratuitamente alle 21 di giovedì 26 giugno. Ci vediamo qui. Buongiorno a tutti, questa è sempre Radio 24, io sono sempre Matteo Caccia, tutti i giorni alle 16 a raccontare storie. La storia di oggi è una storia, come sempre è una storia personale, quindi racconta di una persona, in questo caso di una persona e di un animale, di un cane, ed è la storia di qualcuno, è una storia molto privata, però appartiene a tutti, appartiene anche a chi un cane non ce l'ha mai avuto, perché si parla di episodi, si parla di cose, si parla di storie e si parla di quelle cose che più o meno muovono le persone, che sono abitualmente i sentimenti. E la storia di oggi, la storia che vi racconto e che ci manda Tiziano, parla di lui e del suo cane che si chiamava Perro. 349-238-6666, SMS, al volo, come si chiama o come si chiamava il vostro cane. Vale tutto, il mio l'ho chiamato Ugo, ci sono cani che sono chiamati Matteo probabilmente, e ci sono cani che invece sono chiamati Firi, Filù, come si chiama? Fido. Il cane di Margherita come si chiama? Non mi ricordo mai. Faluk? Pallino, no, Pallino quello di adesso, il cane... Dylan, esatto. Il nome del vostro cane al volo, 349-238-6666, una carrellata di nomi, quella però che vi raccontiamo di Tiziano è una storia, come spesso capita quando si parla di animali e si racconta dei propri, anche molto toccante. Mi chiamo Tiziano, sono nato un luminoso martedì di gennaio del 1979 e ho sempre avuto il terrore per i cani. Ma non per caso, perché un cane che abitava davanti a casa dei miei morse in più occasioni me e i miei amici, quando avevamo fra i 4 e i 9 anni. Questo cane si chiamava Nick, in onore di Nick Cayman, ma pronunciato con inflessione dialettali, tutti chiamavano questo cane Nick. Ecco, gli incontri con Nick hanno fatto sì che io mi sia portato negli anni il terrore dei cani. Quello però, quel periodo della mia vita era un momento particolare. Quasi Natale, 2009. La ragazza con cui uscivo in quel periodo si era resa irraggiungibile per tutto il fine settimana precedente al Natale, senza dare nessuna spiegazione. Ed io a casa ad aspettarla, come un cretino. La ragazza ricomparve il lunedì prima del Natale di quell'anno, ma per me nulla era più come prima. Il piovoso e grigio 24 dicembre maturai allora la decisione. Quel Natale non lo volevo passare da solo. Ignorando completamente che cosa volesse dire, vado al canile più vicino al mio posto di lavoro e chiedo di adottare un cane. Mai avrei pensato di prendere in considerazione l'ipotesi di adottare un cane perché ne ho sempre avuto paura. In quel momento ho sentito che avevo voglia di farlo e l'ho fatto. La ragazza del canile mi chiede un po' di me. Che cane sarei pronto ad ospitare? Io le racconto la mia storia di terrore palese nei confronti dei cani. E più vado avanti e più mi rendo conto di apparirle come un astemio che si reca all'Oktoberfest. Alla fine mi dice: senti, tu avresti bisogno di un cucciolo, magari che viene da una famiglia. Noi adesso abbiamo solo cani piccoli ma incrociati con razze pericolose, o cani grandi che però hanno già alle spalle storie di abbandono, magari sono un po' diffidenti, quindi difficili. Ti daremo un cane da portare fuori qualche volta, poi magari ti affezioni e lo adotti. Però ecco, adesso mi pare prematuro che tu adotti un cane. Io la ringrazio sinceramente per i consigli, che trovo effettivamente logici, però ormai ho deciso. Cane sia. Nella mia zona c'è un giornale di annunci gratuiti, il cui nome trovo piuttosto azzeccato per cercarci un cane. La Pulce si chiama. Cerco fra le pagine gialle gli annunci di animali e ne trovo uno che dice: offresi 6 meticci taglia media, contattare il numero 347 bla bla bla per informazioni. La sera della stessa vigilia di Natale chiamo quel numero. La ragazza dall'altra parte del telefono, Alessia, mi dice che i cuccioli sono ancora tutti disponibili e che sono il risultato di un incrocio tra Golden Retriever e Pastore Belga. Io le chiedo se ha delle foto dei cani e lei mi risponde: ma no, che non si fanno le foto, il cane lo devi sentire. Se ti fa scattare qualcosa, bene, non è una cosa che nasce da una foto. Mi convince. Ci accordiamo per conoscerlo il giorno di Santo Stefano. Avrei passato il Natale comunque da solo. La sera di Natale vado a sentire un gruppo che suona con il mio amico Paolo. Gli racconto che forse avrei preso un cane. Gli lascio qualche attimo per riprendersi dallo sbigottimento. Mi chiede più volte se sono sicuro, ma alla fine mi dice che faccio bene. Il 26 dicembre chiamo Francesco, prima e unica volta che lo chiamo così. Da ora in poi lui sarà sempre e solo il Mada. Gli spiego brevemente la mia idea, gli lascio il tempo per riprendersi dallo sbigottimento più totale, poi gli chiedo di accompagnarmi a vedere i cuccioli. Arrivo a casa di Alessia e lei mi presenta il suo ragazzo. Anche a loro, quindi, racconto la storia di questo trentenne col profondo terrore per i cani. In più, ci aggiungo anche la disavventura del canile. Il ragazzo di Alessia mi dice: guarda, non tutti sanno convivere con un cane. Se tu vedi che per te non è cosa, per favore non portarlo al canile. Piuttosto riportalo qui da noi e lo teniamo insieme agli altri. Questo, devo dire, mi rassicura parecchio. Sono pronto per vedere i cuccioli. Per accedere alla zona dove stanno i cani, Alessia apre una porta di alluminio, dietro cui ci sono tutti quanti i cani, che cominciano a saltare e ad abbaiare e mi saltano direttamente alle gambe. Io ho subito paura, anzi no, terrore. Il ragazzo di Alessia fa allontanare i 5 cuccioli che erano venuti a saltarmi addosso e a quel punto il 6° cucciolo, che fino a quel momento era rimasto in disparte, mi viene vicino, mi si siede accanto e mi lecca una mano. Perro, ti chiamerai Perro. La scintilla è scattata. Ci mettiamo d'accordo per venirlo a prendere il pomeriggio del giorno successivo, il 27 dicembre, in modo tale che nel frattempo io possa organizzare l'accoglienza. Chiedo ancora al Mada di accompagnarmi e la mattina andiamo al centro commerciale a comprare quello che ad occhio sarebbe potuto servire. Torniamo a casa quindi con una scatoletta di cibo per cuccioli di cane, una ciotola di plastica rosa, un giocattolino. Casa mia è una mezza bifamiliare con un po' di giardino su tre lati, direi più o meno tra i 120 e i 200 metri quadri. Il tutto recintato con un'inferriata le cui sbarre sono separate l'una l'altra di circa 18 centimetri. Spazio ad occhio sufficiente per essere una via di fuga per l'animale. Quel giorno io sono a pranzo dai miei e mi viene in mente di sfruttare le mai censite risorse della loro cantina. Senza dare particolari spiegazioni, chiedo a mio babbo se avesse una cestina di legno o di vimini e qualche decina di metri di rete frangivista verde. I miei non mi chiedono nulla di specifico su cosa avrei fatto con quel materiale e io sto un po' sul vago, questo non tanto per giocarmi l'effetto sorpresa, quanto perché avevo paura del loro giudizio, perché loro lo sanno che io da sempre ho avuto il terrore dei cani e sanno che sono spesso fuori per lavoro e che sto pure da solo. E sinceramente non mi va di sentirmi dire tutte quelle cose giustissime del tipo «Ma come? Ma non hai tempo per te? Ma lo sai che poi lo dovrai portare fuori tutti i giorni? Ma lo sai che è un bel impegno?» E altre decine di domande perfettamente razionali, che proprio però non ho voglia di affrontare in quel momento. Io vivevo per conto mio, insomma, per cui poi i genitori l'hanno scoperto, diciamo, qualche giorno dopo. O meglio, l'hanno scoperto quando io sono andato col cane a trovarli. E ne sono rimasti colpiti, perché comunque credo che abbiamo visto un certo senso di assunzione di responsabilità, ecco, o di incoscienza, non lo so esattamente. Tornato a casa, mi raggiunge il Mada, che mi aiuta a recintare tutta l'inferriata con la rete frangivista, mentre per il cancello d'ingresso andiamo a comprare una rete di plastica trama abbastanza fine. Messa della carta di giornale nella cestina di legno che ho preso dai miei, il Mada mette in macchina un camicione di incerato per il viaggio di ritorno col nuovo ospite. Può darsi che lo spostamento in macchina gli dia un po' di noia, aveva detto il ragazzo di Alessia il giorno prima. Sulla strada verso l'abitazione dove i cuccioli sono custoditi, ci fermiamo a prendere una bottiglia di prosecco come ringraziamento per Alessia e il suo ragazzo per la cortesia e la disponibilità. Arrivati da loro, ci consegnano il cucciolo, che si incastra alla perfezione nella misura della cuccia. Raccolgo informazioni generiche sui passi burocratici da fare per ratificare l'unione fra me e l'animale e capisco che nella mia vita entrerà presto una nuova figura, il veterinario. Nonostante la cortese resistenza, alla fine li convinco a prendere almeno la bottiglia di prosecco e ci mettiamo in macchina. Io alla guida, Mada coperto dall'incerata, Perro nella cestina. Effettivamente la macchina sembra dare un po' di noia al cucciolo che esonda vomito tre volte nel tragitto fino a casa. Ovviamente addosso al Mada, che non a caso resterà uno dei suoi amici preferiti. Arrivati a casa, passato il cancello d'ingresso, poggio la cestina per terra e il cucciolo comincia a mettere la zampa anteriore destra fuori dal perimetro della cuccia in maniera molto titubante. Si muove solo in una zona di centimetri. Fuori fa già freddo e mentre entriamo in casa mando un SMS a mia sorella dicendo che ho una sorpresa che mi piacerebbe condividere. Dopo pochi minuti sono da me, mia sorella Bia e mio cognato che si innamorano subito perdutamente del cucciolo che mi gironzola titubante per il salotto, spisciacchiando qua e là. Intanto il Mada è tornato a casa e dopo circa un'oretta anche mia sorella e mio cognato tornano dai bambini. Li prego di non anticipare nulla a mio babbo e a mia mamma del nuovo arrivato e ottengo la loro parola. Quando chiudo la porta mi rendo conto che adesso siamo rimasti solo io e lui, che continua a muoversi a minuscoli passi, lasciando traccette di pipì un po' ovunque. Sì, ora siamo io e lui. Nella foto ovviamente c'è lui, Perro, con il pelo chiaro, un pochettino ispido, doveva essere ancora giovane in questa foto. Ha gli occhi castani e ha la testa leggermente storta, come hanno la testa leggermente storta i cani quando cercano di capire cosa succede e un po' già ti danno del pitch wank. Quando ci ha mandato la sua storia, Tiziano, ci ha scritto in una mail queste cose che vorrei leggere. Mi piacerebbe che questa storia fosse letta per due motivi. Primo, perché vorrei che tutti sapessero che cane straordinario era Perro e come ha influito sulla mia vita. Due, per mandare il messaggio che ogni tanto nella vita certi slanci d'affetto vanno fatti, punto e basta. Pronto, Tiziano? Ciao Matteo, ciao, buonasera. Come stai? Senti, bene, complimenti, guarda, ti ringrazio perché insomma, quando leggi sulle storie, insomma, secondo me daresti pathos anche alla bolletta dell'Enel. Lo prendo. La mia storia era bellissima. Lo prendo come un complimento, nonostante la voce causata, lo possiamo dire, da Carlo Genta e dalla temperatura semitropicale che c'è fuori dallo studio, invece la temperatura glaciale che c'è dentro. Ma di questo parlerò con Carlo. Tiziano, senti, la prima notizia che in realtà voglio dare è che Perro non c'è più, nonostante fosse giovanissimo. Purtroppo, guarda, trattengo, cioè, i colleghi che saranno in ufficio a aspettare che scoppi in lacrime, no? E invece tu terrai duro. E invece io bravo, duro. Teniamo duro. E effettivamente sì, purtroppo dopo circa 3 anni e qualche mese che vivevamo insieme, insomma, Perro è morto. E è stato un periodo di circa un mese, insomma, in cui è stato male. È stata una cosa veloce, quindi? Sì, molto, molto. Mm. Ok, da quanto tempo non c'è più, quindi? Perro se n'è andato, cioè è morto a febbraio del 2013. Ok, sì. quindi più di un anno un fa. Un anno e mezzo, sì. Senti, com'è che avevi questo, cioè il terrore dei cani, tu ce l'avevi proprio tale che per strada avevi paura se ne incontravi uno, che non entravi in luoghi in cui c'erano cani, cioè era proprio... Esatto, bravissimo, qualunque taglia di cane. E il problema è che avendo l'hobby della corsa, no? Magari cioè... avevo un cane a 400 metri di distanza e per non incrociarlo magari facevo 2 chilometri in più. Certo. E quindi insomma... Tornavi a casa facendo delle maratone alla fine. Sì, infatti era una necessità, insomma, anche perché o mi tenevo libero 6 ore al giorno per correre, oppure certo. Insomma dovevo imparare a vincere un po' la paura dei cani. E che cosa ha fatto Perro, oltre a leccarti le mani quando sei entrato nel recinto? No, è stato bellissimo appunto perché è arrivato lì e siccome io veramente, anche se erano 5 cuccioli gli altri e mi saltavano addosso tipo Gremlin, no? Cioè. Il padrone li ha allontanati e lui è arrivato con un passo veramente molto rassicurante, sì. È arrivato da me, ha alzato la testa e mi ha leccato e quindi ho capito che non ero io a scegliere il cucciolo, ma era lui che mi diceva ok, senti, da ora cominciamo a stare. E invece insieme. Poi quando è cresciuto, che tipo di cane era? Era impaurito? Era, No. È stato un cane buonissimo, proprio amico con chiunque, con i bimbi, con gli altri cani. Un po', diciamo, non sono stato un buon allevatore, nel senso okay. Che comunque quando lo portavo in giro... Faceva quello che voleva, sostanzialmente. Faceva un po' quello che voleva, si tirava molto il guinzaglio... Però, ecco, era, diciamo, genuino, ecco, a me piace molto ricordarlo così, sì. Era un cane genuino. Senti, Tiziano, io ti ringrazio, sei stato fantastico e ce l'hai fatta anche, sei arrivato alla fine tenendo duro, con i denti stretti, senza versare una lacrima. Io ti ringrazio molto, però, figura, io ho un cane che si chiama Ugo e so bene di cosa parli, adesso leggerò invece un'infilata dei nomi che sono arrivati, che sono molto divertenti. Fai un buon fine settimana, Tiziano, grazie ancora. Grazie, Matteo, a voi. Ciao, a presto. Ciao. Mabo è un maltese, Arpa e Frida, e poi ancora avevo un cane da ragazzo, si chiamava Pisciolo, Mango e Goku, e poi ancora i miei cani Ask, Lady e Nora, e poi un cane preso in canile si chiama Bull, Natasha, sono arrivato una merda, Tato e Cannella, Spillo, ma una bambina di 2 anni lo chiama Pillo, così adesso lo chiamiamo Pili. Ecco, questo è forse il messaggio più oscuro con cui chiudo questa puntata. Grazie a Paulino Corleoni, Tiziano Bonini e la, direi, quasi allevatrice di cani, Margherita Ina. Grazie soprattutto a Tiziano, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Gianfranco, chiamo da Torino e la storia di lunedì è la mia ed è quella anche del bianconiglio. Questa è la mia storia ed io sono qui.